Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrer. Traduzione di Francesco Bergamasco. Come previsto, a Steven l'idea piace e come. E non soltanto l'idea, perché il poeta russo si rivela un maggiordomo esemplare. Esigente con la donna di servizio haitiana, in buoni rapporti con la segretaria, ma non facile da accontentare. Diffidente verso chiunque suoni alla porta, ma capace di passare con naturalezza dalla più grande circospezione alla più grande deferenza, nel caso in cui l'estraneo si riveli non estraneo. È a proprio agio con i fornitori. Si fa mettere da parte i bocconi migliori da Ottomanelli, la macelleria più cara di New York. È un cuoco provetto, abile non soltanto nella preparazione di borscht e manzola stroganoff, ma anche di quelle verdure piene di vitamine che piacciono tanto ai ricchi. Finocchi, broccoli e rucola, di cui prima di diventare maggiordomo, questo divoratore di patate e cavoli ignorava persino l'esistenza. È degno di fiducia al punto da essere mandato in banca a prelevare $10,000 in contanti. Bada a tutto, ricorda perfettamente i gusti e le abitudini del padrone, gli serve il whisky alla temperatura giusta, distoglie lo sguardo con disinvoltura quando una donna esce nuda dal bagno, sa stare al suo posto ma intuisce quali ospiti vedano di buon occhio una maglietta con l'immagine di Che Guevara sotto la livrea o che lui si unisca alla conversazione. Insomma, una perla. Gli amici di Steven glielo invidiano. Tutta Manhattan ne parla. La cosa andrà avanti per un anno, fino a quando un editore francese accetterà il romanzo di Edouard, che a quel punto prenderà il volo per Parigi con la commossa benedizione di Steven. I suoi libri saranno presto tradotti in America dagli stessi editori che li avevano rifiutati. E ora cerco di immaginare che cosa deve aver pensato Steven quando ha letto A Servant Story, pubblicato da Doubleday nel 1983. Che cosa ha scoperto? Innanzitutto che appena il padrone voltava le spalle, il maggiordomo esemplare scendeva dal suo piccolo alloggio nel sottotetto e prendeva possesso della master's bedroom al piano nobile, che si rigirava fra le lenzuola di seta del padrone, fumava spinelli nella sua vasca da bagno, provava i suoi abiti, camminava a piedi nudi sulla sua soffice moquette, che rovistava nei suoi cassetti, che si beveva il suo Chateau Margaux e naturalmente si portava a casa delle ragazze, pescate dove gli capitava, ogni tanto due alla volta, se le scopava e le guardava scopare nel grande specchio veneziano, opportunamente inclinato sopra il letto king size, facendo credere loro di essere, se non il padrone di casa, almeno uno dei suoi amici, un suo pari. Forse mi sbaglio, ma non penso che queste trasgressioni abbiano turbato Steven più di tanto. Perché credo, ma forse mi sbaglio di nuovo, che tutti i domestici sognino più o meno la stessa cosa, di scopare nel letto del padrone, che alcuni lo facciano e che chi assume un domestico, a meno che non sia un completo idiota, lo sappia e finga di non vedere. L'importante è che dopo tutto venga rimesso in ordine, che le lenzuola finiscano in lavatrice. E su questo di Edouard ci si poteva fidare? No. Ciò che deve aver veramente turbato Steven non è quello che il domestico faceva in sua assenza, ma quello che pensava in sua presenza. Steven non era tanto ingenuo da credere che il poeta russo gli volesse bene, ma forse pensava di piacergli. E in effetti era vero. Edouard non trovava Steven né stupido né odioso. Non aveva niente di personale contro di lui. Ma di fronte a Steven si sentiva come il mujik che, pur obbedendo al barin, aspetta che giunga la sua ora. E quando quell'ora sarà giunta, entrerà dalla porta principale nella bella casa piena di oggetti d'arte del barin, la saccheggerà, gli violenterà la moglie, getterà a terra il barin stesso e lo prenderà a calci con un riso di trionfo. La nonna aveva descritto a Steven lo stupore dei nobili zaristi quando videro scatenarsi a quel modo i loro bravi Vania, tanto devoti e fedeli, che avevano visto nascere i loro figli ed erano sempre stati così carini. E penso che Steven abbia provato a sua volta lo stesso stupore nel leggere il libro dell'ex domestico. Per circa 2 anni Steven aveva vissuto senza alcun sospetto accanto a quell'uomo tranquillo, sorridente e simpatico che gli era nemico nel più profondo dell'animo. Immagino Steven mentre legge e ricorda il giorno, lo aveva completamente dimenticato, in cui ha inveito contro il suo domestico perché un paio di pantaloni non era tornato a tempo dalla lavanderia. Edward ha incassato, con il volto pallido, chiuso nella sua impassibilità di mongolo. Un'ora dopo Steven si è scusato. L'incidente era chiuso e ne hanno riso, cioè Steven ne ha riso. Non ha neanche lontanamente immaginato che se la sfuriata fosse durata qualche secondo in più, Edward sarebbe andato a prendere il trinciante dal cassetto della cucina e lo avrebbe sgozzato da un orecchio all'altro come un maialino da latte. Questo almeno è quello che dice Edward. È il giorno del ricevimento offerto dall'alto dirigente dell'ONU? Il dirigente abitava nella casa confinante con quella di Steven, che ha fatto una capatina per un saluto informale, ha bevuto un po' di champagne nel giardino illuminato dai riflettori, ha chiacchierato con diplomatici, mogli di diplomatici, congressmen e capi di Stato africani, senza sospettare, perché mai avrebbe dovuto, che dall'abbaino di casa sua, là in alto, il domestico li stava osservando. E che quella festa di potenti, alla quale lui non aveva alcuna speranza di essere invitato, lo aveva messo in uno stato di furore tale da spingerlo a scendere in cantina, prendere il fucile da caccia del padrone, estrarlo dalla custodia, caricarlo e cominciare a mettere sotto tiro un ospite dopo l'altro. Edward ne ha riconosciuto uno che aveva visto in televisione. Era il segretario generale dell'ONU, Kurt Waldheim, del quale, 20 anni dopo, sarebbe venuto alla luce il passato nazista. Quella sera Steven ha scambiato qualche parola con lui e mentre Steven parlava, il suo domestico li teneva sotto tiro. Quando Steven e Waldheim si sono separati, Edward ha seguito quest'ultimo da un crocchio all'altro, tenendolo sempre al centro del mirino. Il suo dito si irrigidiva sul grilletto. Era terribilmente difficile resistere. Se avesse sparato, Edward avrebbe raggiunto la celebrità in un batter d'occhio. Tutto quello che aveva scritto sarebbe stato pubblicato. Il suo diario di un fallito sarebbe diventato un libro di culto, la Bibbia di tutti i losers rabbiosi del pianeta. Edward si è gingillato con quest'idea. Ha indugiato sull'orlo del gesto fatale come si indugia sull'orlo del piacere. Poi Waldheim è rientrato in casa e dopo un istante di tremenda delusione, il domestico ha pensato: meglio così. In fondo non sono ancora a questo punto. Peggio di tutto è quello che il domestico scrive sul bambino leucemico, figlio di altri vicini, una coppia deliziosa. Il piccolo aveva 5 anni. Nel quartiere tutti lo adoravano e seguivano con angoscia crescente i progressi della malattia. La chemioterapia, la speranza, la ricaduta. Steven conosceva i genitori abbastanza da andarli a trovare. Ogni volta tornava a casa sconvolto. Pensava naturalmente ai propri figli. Un giorno il vicino gli ha detto che non c'era più niente da fare. Questione di giorni, probabilmente di ore. Steven è sceso a dare la notizia a Jenny, che è scoppiata in lacrime. Edward, come al solito, era in cucina. Non ha pianto, ma sembrava anche lui commosso alla sua maniera pudica e militare. Sono rimasti tutti e tre in silenzio e Steven serba di quel momento un ricordo stranamente luminoso. Le barriere sociali erano cadute. C'erano soltanto 2 uomini e una donna attorno a un tavolo che aspettavano insieme la morte di un bambino. Tra loro non c'era altro che dolore, compassione e qualcosa di fragile che forse era amore. Ed ecco quello che scrive Edward. «E va bene, morirà di cancro il piccolo e chi se ne frega?» Sì, è un bel bambino, sì, che pena, ma io ripeto, chi se ne frega? Anzi, meglio così, che crepi, quel moccioso figlio di ricchi, sono contento. Perché dovrei fingere tenerezza e pietà mentre la mia stessa vita, seria e unica, è distrutta da tutti quei merdosi, senza nessuna eccezione? Muori, bambino condannato, non ti aiuteranno né il cobalto né i dollari, il cancro non rispetta il denaro. Offrigli pure miliardi, lui non farà marcia indietro. Ed è bene che sia così. Almeno una cosa davanti alla quale tutti sono uguali. Che figlio di puttana, pensa Steven. E lo penso anch'io. E probabilmente anche tu, lettore. Tuttavia, penso anche che se si fosse potuto fare qualcosa per salvare il bambino, meglio ancora qualcosa di difficile o pericoloso. Il primo che si sarebbe dato da fare e si sarebbe gettato nella lotta con tutte le proprie forze sarebbe stato Edward. Un giorno Steven chiede al domestico di preparare la camera degli ospiti più bella per il suo illustre connazionale, il poeta Yevgeny Yevtushenka. Edward non ha nessuna stima di quell'ipocrita, dissidente a metà, ricoperto di privilegi e di dace, che riesce ad avere la botte schifosamente piena e la moglie completamente ubriaca, ma naturalmente non fiata. Yevtushenka arriva, alto, bello, soddisfatto di sé, con una giacca di jeans lilla, una macchina fotografica dall'enorme zoom a tracolla e buste dei grandi magazzini pieni di gadget di ogni tipo introvabili in patria. Un bifolco siberiano sbarcato in città, secondo la definizione di Brodsky, che prendo a prestito, e avendo incontrato anch'io Yevtushenka 20 anni dopo, la confermo. Steven, elettrizzato di avere in casa quel russo così russo, organizza un cocktail in suo onore. Del servizio si occupa Edward in livrea. Com'è prevedibile, teme il momento umiliante della presentazione al grand'uomo. E questo puntualmente arriva, ma, con sua grande sorpresa, Yevtushenka ribatte: Limonov. Ha sentito parlare del suo libro, Edichka, giusto? Dicono che sia formidabile, gli piacerebbe leggerlo. La comitiva se ne va. Prima al Metropolitan, dove è di scena Nureyev, poi a cena al Russian Samovar sulla 52esima strada. Edward invece sparecchia, riordina e si corica presto. Quando Steven è in città non c'è altro da fare. Alle 4 del mattino squilla in camera sua il telefono interno. È Yevtushenka che gli chiede di scendere in cucina. È seduto insieme a Steven davanti al tavolo, su cui troneggia una bottiglia di vodka. Sono entrambi molto ubriachi. Hanno i nodi dei papillon disfatti e invitano Edward a bere con loro. Di ritorno dal Russian Samovar, Yevtushenka ha letto la prima pagina del manoscritto che Edward ha disciplinatamente lasciato in bella vista in camera sua, poi la seconda, seduto sulla tazza del cesso, e dopo un'altra 50ina di pagine, hai voglia riuscire a dormire. Yevtushenka ha trascinato Steven in cucina per bere ancora e festeggiare la sua scoperta e ora ripete con voce impastata ma entusiasta: It's not a good book, my friend. It's a great book. A fucking great book. Yevtushenka trova che faccia molto cosmopolita e spregiudicato dire fucking e lo dice a più non posso. Assicura che si adopererà per farlo pubblicare. Steven, che quando beve diventa sentimentale come il riccone con il cappello a cilindro di Luci della città, abbraccia con affetto il giovane prodigio. Fanno un brindisi al capolavoro, poi un altro. E il nostro Edward riacquista speranza, certo, e si lascia andare un po' all'euforia generale. Ma ciò nonostante pensa, nel suo tenebroso intimo, che un miliardario americano e un poeta sovietico ufficiale appartengono alla medesima classe, quella dei padroni, che lui, Limonov, mille volte più dotato e pieno di energia, non ne farà mai parte, che bevono al suo talento, ma toccherà a lui ripulire tutto quel casino, quando alla fine loro se ne andranno a letto, e che quando arriverà il grande giorno della rivoluzione, non gliela farà mica passare liscia quei due. Dopo altri abbracci, ma da sobri sono meno calorosi, Steven e Yevtushenka vanno a sciare in Colorado. Passano alcune settimane senza notizie. Faceva bene Edward a non fidarsi. Ma proprio allora riceve una telefonata da un tizio che si chiama Lawrence Ferlinghetti. Quel nome non gli è nuovo. Lui stesso poeta, Ferlinghetti è anche l'editore leggendario dei Beatnik a San Francisco. Il suo amico Yevgeny gli ha parlato di quel grande libro, uno dei migliori scritti in russo dalla fine della guerra, un punto a favore di Yevtushenka, e gli piacerebbe leggerlo. Ferlinghetti è di passaggio a New York, ospite del suo amico Allen Ginsberg, quest'uomo ha soltanto amici famosi. Dato che Steven non c'è, Edward lo invita a pranzo a casa. Ferlinghetti è un uomo non più giovane, calvo, con la barba, piuttosto di bella presenza. La moglie, anche lei niente male. Pur avendone viste tante, i due restano sbalorditi dal lusso di Sutton Place. Yevtushenka non ha detto loro cosa facesse il poeta per vivere. Deve essersi dilungato sui passaggi più trash del libro e si vede che la coppia si sta chiedendo, senza osare chiederlo a Edouard, com'è possibile che quel ragazzo che gli è stato descritto come un mezzo barbone, che va letto con i neri a Harlem, abiti in un luogo simile. Ha forse un amante miliardario? Oppure è lui stesso miliardario e bazzica i bassifondi di New York al modo in cui il califfo Harun al-Rashid bazzicava quelli di Baghdad, travestito da mendicante. Le loro facce cordiali sono ridotte a due punti interrogativi. Edouard è divertito dal malinteso, ma con sua grande sorpresa lo è ancor più dopo che si è rassegnato a chiarirlo, perché invece di essere delusi o di guardarlo improvvisamente dall'alto in basso, Ferlinghetti e la moglie scoppiano a ridere, entusiasti del tiro che Edouard ha giocato loro, e si dichiarano ancora più sbalorditi. Che burlone, che avventuriero. Sicché Edouard non vede più se stesso come un servo, ma come uno scrittore alla Jack London, che fra i 100 pittoreschi lavori con cui avrà sbarcato il lunario, marinaio, cercatore d'oro, borsaiolo, avrà fatto anche il servo. Recita per la prima volta davanti a un pubblico di intenditori la parte in cui eccelle. Disinvolto, cinico, uno che scivola sulle onde della vita. È un trionfo. La coppia gli chiede di raccontare le sue avventure e Edouard capisce distinto che il suo nuovo pubblico gradirà più la versione canaglia che quella dissidente. Ma insomma, gli chiede la moglie di Ferlinghetti che si beve ogni sua parola, lei è omosessuale? Un po' tutto, risponde lui con noncuranza. Un po' tutto, fantastico! Quando si lasciano, brilli ed eccitati, la pubblicazione sembra soltanto una formalità. Perciò il colpo è tanto più duro quando, un mese dopo, Edouard riceve da San Francisco il manoscritto con una lettera di Ferlinghetti che non lo accetta e non lo rifiuta esplicitamente, ma suggerisce un finale diverso, una conclusione tragica. Edishka dovrebbe commettere un omicidio politico come De Niro in Taxi Driver. Edouard scuote il capo, avvilito. Ferlinghetti non ha capito niente. Dio solo sa se non ci ha pensato. Ci è mancato poco che lo facesse quando ha inquadrato Valdine nel mirino del fucile. Se non lo ha fatto, è perché spera ancora di cavarsela diversamente. Lui subisce qualunque cosa, lavori di merda, rifiuto degli editori, solitudine, ragazze di categoria E, perché aspetta il giorno in cui entrerà nel salotto dei ricchi dalla porta principale. Si scoperà le loro figlie vergini e verrà pure ringraziato. Sa esattamente cosa passa per la testa di un loser che, esasperato, prende un'arma e spara nel mucchio, ma, dal momento che è capace di scriverlo, lui non è ancora quel loser ed è escluso che lo sia il suo doppio su carta. La lettera termina con un po' scritto, questo. Visto che oggi il protagonista del suo libro abita in una casa lussuosa, in cambio di un lavoro non troppo impegnativo e approfitta, in una certa misura, dei vantaggi della società borghese, non è per caso un po' più indulgente verso questa stessa società? Non la guarda con occhi più sereni? Stronzo, cazzo che stronzo. Falsa speranza, colpo di grazia, sembra che tutto vada a puttane un'altra volta e poi, come capita, tutto si rimette in moto. Qualcuno a Parigi parla del libro a Jean-Jacques Pouvert. Edouard non sa ancora che si tratta di un editore mitico e sulfureo almeno quanto Ferlinghetti. L'editore dei surrealisti, di Sade e dell'Histoire d'eau, condannato 10 volte per oltraggio al pudore e per offesa al capo dello Stato e 10 volte rinato, allegramente. Pouvert è entusiasta dei pochi capitoli letti in traduzione e decide di pubblicare il libro. Sarà un po' complicato perché la sua casa editrice è fallita di nuovo e Pouvert deve trovare ospitalità presso un altro editore, ma non importa. Ciò che conta è che Io Edishka esce nell'autunno del 1980 con il titolo La sensazione trovato da Pouvert. Il poeta russo preferisce i grandi negri. Quarto. Parigi, 1980-1989. Quando Limonov è arrivato a Parigi, io ero appena tornato dall'Indonesia, dove avevo trascorso 2 anni. Non si può certo dire che prima di quell'esperienza avessi avuto una vita molto avventurosa. Sono stato un bambino giudizioso, poi un adolescente troppo colto. Mia sorella Nathalie, che doveva svolgere un tema dal titolo «Descrivete la vostra famiglia», fece di me questo ritratto. Mio fratello è molto serio, non fa mai sciocchezze, legge tutto il giorno libri da grandi. A 16 anni avevo un gruppo di amici appassionati come me di musica classica. Passavamo ore intere a confrontare diverse esecuzioni di un quintetto di Mozart o di un'opera di Wagner, scimmiottando la leggendaria trasmissione di France Musique, La Tribune des Critiques de Disque, i cui ospiti ci affascinavano per l'erudizione, la malafede e l'evidente piacere di costituire una piccola enclave di civiltà ironica e brontolona in un mondo di barbari votati ai ritmi binari. Studente al Lycée Jason de Sailly, poi iscritto a Scienze Politiche, ho trascorso gran parte degli anni 70 a disprezzare il rock, a non ballare, a ubriacarmi per darmi un tono e a sognare di diventare un grande scrittore. Nell'attesa sono diventato una specie di wunderkind della critica cinematografica, pubblicando sulla rivista Positif lunghi articoli sul cinema fantastico o su Tarkovsky, nonché sui film che mi sembravano brutti, tra filetti la cui cattiveria oggi mi farebbe arrossire. In politica ero orientato decisamente a destra. Se mi avessero chiesto perché, avrei risposto, immagino, per dandismo, piacere di appartenere a una minoranza, rifiuto del conformismo. Sarei rimasto stupito se mi avessero detto che, lettore di Marcel Aimé e ferocemente avverso a ciò che ancora non veniva chiamato politicamente corretto, riproducevo le opinioni della mia famiglia con una remissività tale da fornire una illustrazione esemplare delle tesi di Pierre Bourdieu. Mi secca mostrarmi così poco indulgente con l'adolescente e il ventenne che sono stato. Vorrei amarlo, riconciliarmi con lui, ma non ci riesco. Mi sembra di poter dire che ero terrorizzato, dalla vita, dagli altri, da me stesso, e che l'unico modo per impedire al terrore di ridurmi alla paralisi totale fosse ripiegarmi su me stesso in un atteggiamento ironico e disincantato e considerare ogni tipo di entusiasmo o impegno con il ghigno del tipo a cui non la si fa. Uno che sa come va il mondo senza essere mai andato da nessuna parte. Alla fine, però, da qualche parte ci sono andato e ho anche avuto la fortuna di non andarci da solo. A Scienze Politiche ho conosciuto Muriel. Era una bellissima ragazza. Aveva il fisico perfetto di una modella di Playboy e si vestiva lasciando poco spazio alla fantasia. In Rue Saint-Guillaume, dove a quel tempo gli studenti portavano tutti il Loden, abbinato con foulard di Hermès per le ragazze e con camicia dal colletto chiuso da un fermaglio d'oro sotto la cravatta per i ragazzi, faceva l'effetto di una bomba. Io, si è detto a mia discolpa, portavo Clarks malconce e una vecchia giacca di pelle. Ero uno studente svogliato, beffardo, poco motivato, fedele ai valori menefreghisti delle superiori, che evidentemente non trovavano più spazio in una scuola in cui tutti già si vedevano al timone della Francia. Scrivevo racconti di fantascienza e recensioni di film che mi procuravano l'invito a proiezioni private, dove potevo portare con me qualche ragazza, e presumo di dover ringraziare questa miscela di elementi artistici e bohemien, questa generica attitudine all'obiezione di coscienza se, nonostante la mia timidezza, ho agganciato la ragazza più sexy e allo stesso tempo meno presentabile del mio anno. Come gli studenti di scienze politiche, anche i miei amici appassionati di musica classica trovavano Muriel un po' volgare. Parlava a voce alta, rideva a voce alta, sottolineava le frasi con «voglio dire» e «capisci», rollava spinelli con una macchinetta di metallo che mi ha regalato e che ho ancora, sul fondo della quale aveva scritto con un pennarello «Don't forget». Ogni volta che l'apro penso a lei con gratitudine, chiedendomi che strada avrebbe preso la mia vita se fossimo rimasti insieme più a lungo. Era una vera fricchettona e ha fatto anche di me un vero fricchettone. Al termine di un'adolescenza passata a leggere scrittori di destra del periodo fra le due guerre, sognando di andare un giorno al festival di Bayreuth, mi ritrovavo in una isolata fattoria della Drôme a fumare erba, ad ascoltare musica psichedelica, a lanciare su kilim sfilacciati le tre monete che permettono di interpretare Li Ching e, soprattutto, a fare l'amore con una ragazza allegra e schietta, la quale, nuda dalla mattina alla sera, mi regalava lo spettacolo e il godimento di un corpo quasi soprannaturale nel suo splendore e a 20 anni, venendo da dove venivo, indubbiamente non poteva capitarmi di meglio.